Randomiche, grazie. Ma insomma, comunque ogni pezzo è abbastanza a sé. Non che manchi, almeno nella mia testa, un quadro di insieme, però le varie parti della mia esposizione hanno un carattere abbastanza frammentario quasi. Cioè, adesso, nell'ora e mezza passata, abbiamo parlato di media elettrici. Cosa vuol dire i media elettrici per McLuhan? Abbiamo parlato del concetto di rizoma nell'opera di Deleuze e Guattari, abbiamo parlato di congiunzione e connessione, quindi di cose in qualche modo nuove, diverse rispetto agli argomenti di cui avevamo trattato nelle lezioni precedenti. E si potrebbe dire, ma in questo modo come si fa a ricomporre un quadro complessivo, dal momento che poi giustamente alcuni possono esserci in certi momenti e non in certi altri? Allora, prima risposta: non ci mettiamo troppo in ansia, non tutto quello che io dico è indispensabile, anzi forse nulla di ciò che io dico è indispensabile, e il quadro complessivo del mio ragionamento è comunque alla fine molto lacunoso, nel senso che non dirò tutto e quindi anche se ne perdiamo delle parti va bene lo stesso. Però ci sono due cose che ci aiuteranno, vi aiuteranno. Uno, io cercherò di mandarvi, a partire da questa settimana, dei materiali, dei testi che sono in parte delle cose che scrivo io, insomma, su argomenti che riguardano questi temi. Due, sono dei suggerimenti bibliografici. Cioè, vi dirò i libri che possono essere utili per capire meglio le nostre questioni e anche vi mando proprio dei brevi o anche lunghi testi che riguardano soprattutto la tematica del denaro. Prima di tutto io vi manderò... ti manderò una bibliografia, perché i primi due testi che vi suggerisco sono, come già detto, Gli strumenti del comunicare di McLuhan, Understanding Media di McLuhan, e due, L'uomo indebitato, anzi La fabbrica dell'uomo indebitato di Maurizio Lazzarato. Questi sono i due libri che vi consiglio proprio di procurarvi e nel corso del tempo di leggervi. Poi vi manderò anche dei testi, in particolare uno in inglese di David Graeber, questo libro sul debito che ancora non è uscito in italiano. Quindi insomma io vi mando un po' di roba che vi potrà aiutare. Per finire, io torno sugli argomenti in modo un po', diciamo, circolare. E quindi lei ha perso questa prima parte che secondo me era abbastanza interessante, può darsi che ti ricapiti una cosa sul concetto di rizoma, se non ti ricapita non te ne preoccupare, potrai però leggere un libro, un breve testo che si chiama Rizoma, di cui ti manderò l'indicazione bibliografica, per cui quello che hai perso, lo recuperi. Insomma, diciamo che il corso ha un carattere ricombinante, nel senso che è composto di pezzi relativamente diciamo intercambiabili, e il quadro generale del mio ragionamento non è che io qui sto raccontandovi una cosa precostituita che dall'inizio alla fine deve essere seguita perché altrimenti non capiamo bene. Tanto non capiamo bene in ogni caso. Non stiamo facendo, o almeno io tento di fare, un lavoro molto sperimentale. Ho proposto un tema del tutto sperimentale, cioè il tema è, come ripeto per chi non l'avesse sentito, il tema è il denaro come forma, come medium di comunicazione, il denaro dal punto di vista della sociologia della comunicazione. E è un tema sul quale non c'è un manuale sull'argomento. Ci sono alcuni autori che hanno cominciato a pensarci. I nomi ve li ho già anche un po' detti: Maurizio Lazzarato, David Graeber, Christian Marazzi, di cui parleremo, anche Mandelbrot. Questo autore di un libro che si chiama Il disordine dei mercati, è un libro sulla finanza dal punto di vista del frattale. Forse voi avete sentito parlare di Benoît Mandelbrot come teorico della questione dei frattali. Ne abbiamo parlato prima con Tommaso, che ha posto la questione relativa ai frattali. Cosa sono i frattali? I frattali sono delle figure geometriche che sono frammenti, parti di una figura più ampia, però sono frammenti ricomponibili, ricombinabili, cioè perfettamente ricomponibili con altri frammenti, frattali. E che c'entra con i mercati? Beh, Mandelbrot parla proprio della finanza come un sistema infinito di frattali, cioè di segmenti possono essere le azioni di borsa, possono essere il denaro è frattale. Se noi abbiamo delle mele, abbiamo quattro mele e le tagliamo in pezzetti, dopo non sarà tanto facile rimetterle insieme. Se abbiamo 4.000 euro e li dividiamo in pezzetti, sarà facilissimo ricomporli, perché il denaro è fatto proprio come un insieme di frattali, come una entità ricombinabile, che può essere continuamente diviso e ricomposto secondo un principio matematico di compatibilità, di ricombinabilità. Ma dunque, dicevo, insomma, per dire, ci sono dei libri che cominciano un po' a ragionare su questo argomento. Nessuno ha mai, a mia conoscenza, magari qualcuno l'ha già fatto, io non lo so, ma nessuno ha mai cercato di sviluppare in modo sistematico la questione il denaro dal punto di vista della teoria della comunicazione. Anche perché, come vi ho detto fin dall'inizio, questo ragionamento implica vari ambiti. L'ambito propriamente economico: cos'è la finanza, cos'è l'economia finanziaria. Due, questo discorso implica un riferimento alla storia dei media. La finanza diventa così importante nel sistema economico quando, grazie a internet, grazie alla rete diventa possibile una diffusione globale totalmente deterritorializzata e totalmente ricombinabile dei frammenti, dei frattali, dei segmenti dell'azione finanziaria. Non solo, questo discorso sul denaro e la comunicazione implica anche una valutazione, una considerazione relativa al denaro come forma del linguaggio. Ho detto fin dall'inizio, ho citato, e poi lo citerò ogni volta che ci vediamo, una frase di un economista, di un americano che si chiama Robert Sordello, che dice: il denaro e il linguaggio hanno qualcosa in comune, due punti, sono nulla eppure muovono tutto. Interessantissimo come punto di vista sul nostro discorso. Il denaro e il linguaggio hanno una cosa in comune, una cosa interessante, sono nulla, tanto per cominciare, sono nulla. Cos'è il linguaggio? Non c'è prima che io parli, non c'è prima che noi parliamo. Il linguaggio esiste solo perché gli esseri umani lo enunciano, lo producono, non preesiste all'atto stesso di linguaggio. Eppure muove tutto. Noi non saremmo nulla, oppure sì, saremmo nella giungla a brucare l'erba, non avremmo la possibilità di parlare di civiltà umana se non fosse grazie al linguaggio. Dunque, il linguaggio, che è nulla, cioè non si preesiste, però è proprio quel flusso immateriale che pone in essere tutto, tutta la storia, la civiltà, la materia della relazione umana, eccetera, eccetera. E beh, il denaro è la stessa cosa. Il denaro è nulla. Dei pezzi di carta, talvolta neanche dei pezzi di carta, talvolta semplicemente dei numeri che vagano nell'infosfera, che stanno scritti dentro dei computer di una banca. E dunque il denaro è nulla, eppure il fatto che noi siamo portatori di carta denaro, oppure neanche siamo portatori di carta denaro, ma siamo semplicemente soggetti di un credito. Anche la questione, cos'è il credito? Ecco, però, ecco, questo fatto che gli esseri parlanti, gli umani, possiedono questo simbolo che è costituito dal denaro, mette in moto tutto, perché il denaro è, e qui entriamo un po' di più nella questione, è sia un equivalente generale, cioè un medium, un mezzo, uno strumento di scambio che permette di scambiare ogni cosa con ogni altra cosa, dunque è un equivalente di un panino, un equivalente di una bottiglia d'acqua, è un equivalente di un'automobile, è un equivalente di un aeroplano, è un equivalente di tutto. Ma non è solo questo il denaro. Il denaro è anche una ingiunzione, un ordine, un comando. È il comando che ci spinge a fare ciò che senza denaro forse non faremmo, o comunque senza ciò che il denaro ci permette di avere. Comanda lavoro. Il denaro è comando sul lavoro. Questo è importantissimo. Il denaro è comando sul lavoro, e dunque, essendo comando sul lavoro, se tu fai questo io ti darò un salario, questo muove la potenza produttiva del lavoro umano, e dunque crea il mondo che noi conosciamo. Vedete come il denaro e il linguaggio si assomigliano in quanto funzioni, in quanto operatori di un processo produttivo, e si assomigliano anche per il fatto che non ci sono, non sono nulla, senza la volontà umana di porli in essere. Sono una finzione che permette all'umano di concretizzarsi, determinarsi e farsi mondo, mondo delle merci, mondo della storia, eccetera, eccetera. Scusi, se ad esempio non ci fosse il denaro, ad esempio se venissi pagato con un formaggio, per dire, cioè, sì, in quel caso il formaggio non sarebbe anche quello, cioè quello che mi porta il comando verso il lavoro, perché comunque ne ho bisogno. Volevo capire, cioè, in che modo cambia la situazione se si toglie, cioè se altre cose oltre al denaro possono essere il comando verso... Dunque, sta di fatto che nella storia umana è possibile il baratto, il baratto è una delle forme dello scambio umano, e forse per millenni gli uomini hanno vissuto grazie al baratto. Però il passaggio ad una forma di civiltà nella quale tutti possano scambiare con tutti è generalmente reso possibile dal denaro, allo stesso modo che lo scambio, diciamo, di tipo puramente dimostrativo del linguaggio, per cui non occorre che io dica sedia, per avere una sedia bisogna che io lo abbia detto, non occorre che io dica albero, è sufficiente che io ti mostri l'albero, non occorre che io ti dica ho fame, è sufficiente che io ti... Ecco, dunque è possibile anche senza linguaggio una esistenza umana, però è possibile magari attraverso forme di linguaggio non simbolico. Però è attraverso la creazione di un equivalente generale nel linguaggio come nell'economia che si rende possibile diciamo un progresso, una civiltà, una storia. Cioè, capisco che passando al denaro poi c'è prolifera, c'è tutto un mondo di sì. Però c'è quella cosa degli ingiunzioni, cioè del comando al lavoro, che cioè ci sarebbe comunque, perché sì, sì, avrei comunque fame. Sì, sì, se il lavoro viene pagato, come in alcuni casi accade, direttamente con il valore d'uso necessario per la soddisfazione di un bisogno, questo svolgerebbe la funzione dello strumento. Insomma, nel momento in cui però la cosa si articola e si complica, o il formaggio diventa denaro, cioè l'equivalente generale, cosa che accade con il sale. È il sale, in alcune civiltà il sale diventa l'equivalente generale, la parola salarium nasce proprio dal fatto che i latini pagavano alcune funzioni, ad esempio quella militare, con il sale, perché il sale diventava poi come? Serviva per conservare meglio i cibi. Perché? Veniva utilizzato per la conservazione del cibo. Esattamente, diventava una sorta di equivalente generale perché era indispensabile per conservare il cibo. Direi che l'evoluzione verso un linguaggio simbolico e l'evoluzione verso il denaro corrono abbastanza in parallelo. Comunque, Prof, mi scusi l'interruzione, prego. Non è che potrebbe spostarsi in 2022, perché ma, certo, ricordate che c'era lui come vino. Bene. Dobbiamo andare 34 persone, devono disegnare lo storico, allora questo. Noi ci spostiamo volentieri. Voglio però passare, e in questo ci aiuta l'interruzione, voglio passare ad un argomento di ordine storico. Diciamo piuttosto un argomento di storia della cultura, se vogliamo, che riguarda le origini della modernità capitalistica. Parliamo di denaro, non possiamo naturalmente trascurare il fatto che ne parliamo in questo contesto, il contesto della crisi finanziaria contemporanea, che ci costringe a pensare che forse questa crisi finanziaria è in realtà, può essere in realtà una crisi, se non, come alcuni ritengono, la crisi finale del capitalismo. Capitalismo che è diventato capitalismo finanziario. E anche qua bisognerà capire cos'è il capitalismo e cosa vuole dire capitalismo finanziario, in cosa si differenzia la storia del capitalismo moderno, diciamo del capitalismo industriale, dal capitalismo contemporaneo, postmoderno, che chiamiamo capitalismo finanziario. Una domanda a cui cercheremo di rispondere, magari anche subito. Altra domanda: dove inizia, dal punto di vista culturale, la storia del capitalismo? Cioè, qual è il passaggio che rende possibile la formazione del modello che abbiamo chiamato capitalismo? Definire il capitalismo è un'impresa, un'altra cosa complicata. Diciamo che il capitalismo è comunque un modello economico che si fonda sulla costante espansione della base produttiva, cioè su un allargamento della base, dell'ammontare dei beni economici che costituiscono la base produttiva. Il concetto di espansione o crescita è costitutivo, fondamentale per il capitalismo moderno. E come accade questa crescita? Ci sono delle risposte a questa domanda. Io prendo la risposta che forse è quella più compiuta, completa, e anche credo quella più universalmente accettata, quella di Karl Marx, il quale, oltre ad essere un autore maledetto per tante ragioni, però è anche un economista, o piuttosto un critico dell'economia, come lui si definisce. Marx non è un economista e non ha mai scritto un libro di economia. Marx ha sempre scritto opere di critica dell'economia politica. Notate che le sue opere principali, il Capitale, i Grundrisse, hanno sempre come sottotitolo "Per la critica dell'economia politica". Questo è importante perché Marx rifiuta l'idea di una descrizione pura e semplice, come se l'economia fosse un evento naturale. L'economia non è un evento naturale. L'economia è il risultato, il prodotto, l'effetto di una storia politica, culturale, sociale. E quando dico politica, voglio dire che dentro la storia dell'economia sono implicite delle relazioni, della volontà, degli interessi, dei conflitti. Quando dico culturale, dico una cosa, adesso sto avvicinandomi a questo, dico una cosa che dovremmo capire bene, culturale nel senso di antropologico. Sapete, i tedeschi usano due parole per dire quello che noi diciamo cultura. Dicono Bildung e dicono Kultur. Quando in tedesco si dice Bildung, si intende la cultura, nel senso, noi diciamo devi farti una cultura, devi diventare una persona colta. La tua cultura non è adeguata a questa situazione. Bildung, c'è anche il prefisso Bild che vuol dire immagine, è l'idea di una immaginazione, di una partecipazione, di una formazione, bravo, ecco, di una formazione personale differente. E, mentre con la parola Kultur ci si riferisce all'insieme di elementi cognitivi, antropologici, psicologici anche, che costituiscono un insieme, un popolo, una civiltà, un periodo storico. E allora in questo senso diremmo la cultura africana ha sviluppato una predisposizione verso l'immaginazione, o non so, la cultura cristiana predispone ad una valorizzazione del ruolo dell'individuo, della persona, no? E dunque usiamo la parola cultura come Kultur, come un elemento identificante sul piano antropologico. Allora, torno a Marx e finisco di spiegare rapidamente cosa vuol dire Marx con la parola capitalismo. Dunque Marx dice che il capitalismo è fondato sulla accumulazione, l'espansione, la crescita è resa possibile da una accumulazione di valore, cioè io metto 100 dollari all'inizio dell'anno e alla fine dell'anno ho 120 dollari, cosicché 10 dollari me li tengo per il mio profitto personale, 10 dollari li reinvesto e l'anno prossimo ci sarà una crescita del 10%, quindi la base produttiva sarà più larga, farò lavorare questi 110 dollari e alla fine ne avrò 140, 10 me li tengo, 20 li investo e così via, così la base produttiva ad ogni ciclo si allarga di quanto? Qui il problema si complica. Se c'è una crescita rigogliosa, come nella Cina degli ultimi 10 anni, la crescita sarà del 10% all'anno. Se c'è una crescita un po' magra, come nei paesi europei o come in Giappone in questi ultimi 10 anni, avremo un 2%, 1%. E se invece si arriva ad una recessione, invece di esserci una crescita c'è un restringimento della base produttiva. Quest'anno in Italia si produrrà, dicono, l'1,7% di meno, in realtà sono bugie perché si produrrà più del 2% di meno. Nella Grecia dell'ultimo anno, grazie alla cura europea, si è prodotto il 7,2% di meno. E difatti tutti dicono i greci sono fottuti grazie alla politica economica della Banca Centrale Europea. E siamo, si dice, in recessione, quando l'economia invece di espandersi si riduce. Dunque Marx parla di accumulazione per intendere questo espandersi del prodotto. Ma come accade che io metto 100 e alla fine dell'anno ne ho 120? È una magia? No, non è affatto una magia, risponde Marx. Il problema è che il capitale investe nel lavoro e il lavoro è una, ovvero l'attività coordinata e finalizzata degli uomini in condizione di dipendenza da un progetto. Il lavoro ha una facoltà straordinaria che è quella di espandere, di modificare, di trasformare il mondo delle cose esistenti. Per cui laddove c'erano dei pezzi di ferro, ecco che vengono fuori delle caffettiere o delle automobili. E questa azione, questa trasformazione che il lavoro produce sulla materia dal punto di vista economico si può considerare come una valorizzazione, cioè come un aumento del valore che c'era all'inizio. Allora io metto 100 dollari per comprare dei pezzi di ferro, alla fine vendo il prodotto del lavoro di un anno e ricavo 120 dollari perché non ho più dei pezzi di ferro, ho delle caffettiere o delle automobili. Ma cos'è successo? Io con quei 100 dollari ho pagato, oltre alle materie prime, soprattutto ho pagato lavoro. Quanto l'ho pagato il lavoro? 80 dollari, 70 dollari. Dunque ne risulta che il lavoro, i lavoratori hanno investito il loro tempo per produrre qualcosa che vale di più, molto di più, del salario che loro ne ricevono. Lo scarto, ho nuovamente dimenticato di spegnere il cellulare, ma lo spengo subito. Ho già spento. Lo segniamo dopo. Dunque, ciao. Qua c'è il foglio presenze, chi non è presente ancora si faccia presente, chi non mi ha scritto il suo indirizzo email me lo scriva. Quale sarà quello giusto? Data, non c'è scritta la data. Data la pesca. Oh, vabbè lo stesso, diciamo che è questo quello giusto, poi ci metteremo le date. Qualcuno scriva la data. Allora il lavoro produce molto di più di quello che gli ritorna in forma di salario, e lo scarto, la differenza fra ciò che i lavoratori hanno prodotto e ciò che gli ritorna come salario, Marx lo chiama plusvalore o pluslavoro, quella parte del lavoro che non viene pagato. Dunque c'è il mistero, il segreto della crescita capitalistica, è semplice da svelare, consiste nel fatto che i lavoratori producono molto di più, di quello che gli ritorna e che loro stessi possono consumare. Questo di più di lavoro, che chiamiamo plus lavoro, produce un di più di valore, che chiamiamo plus valore, che va per l'appunto ad incrementare, aumentare, espandere la massa produttiva iniziale. Questa è la crescita, quella che viene definita crescita o espansione. Ora, questa è, diciamo, una definizione approssimativa del modello economico che chiamiamo capitalismo, un sistema innovativo rispetto al passato, perché se voi pensate a cosa era l'economia del Medioevo europeo o anche del sistema feudale cinese o delle economie di villaggio dell'America precolombiana, si trattava di economie talvolta anche molto potenti, come quella dell'impero cinese nei millenni precedente la nostra modernità. Era sapete che la Cina e l'India unite, assommate, fino al 1870, fino alla fine del XIX secolo, producono il 70% della ricchezza mondiale. Poi dal 1870 in poi la loro produzione declina, l'economia occidentale sale e nel 1945 la Cina e l'India insieme producono meno del 20%, il 18% insieme. Quindi è stato un crollo dell'economia cinese e dell'economia indiana e una crescita delle economie occidentali. Oggi noi stiamo assistendo a un riequilibrio in questo rapporto, niente di strano, semplicemente si sta ritornando a quello che era stato un equilibrio millenario nel rapporto fra Oriente e Occidente, ma questo poco ci interessa. Quello che mi interessa è capire qual è la specificità, la particolarità dell'economia occidentale che denominiamo capitalismo. Allora, sul piano economico, seguendo il testo di Marx, l'abbiamo spiegato, no? Accumulazione, plusvalore, crescita. Ma adesso mi interessa capire questo processo, questa novità, che è la novità della modernità capitalistica europea e occidentale, mi interessa capirla dal punto di vista culturale. E quindi io faccio uno sforzo mentale per collocarmi alla fine del Medioevo europeo e in particolare al momento in cui abbiamo questo vero e proprio Big Bang della modernità capitalistica, l'esplosione iniziale. Questa esplosione è preparata naturalmente da una serie di eventi che accadono nella storia europea dall'anno 1000 fino al 1500, cinque secoli di dissoluzione di un sistema che è il sistema feudale, ma anche di formazione di nuclei, che sono nuclei urbani, nuclei produttivi, nuclei culturali che chiamiamo borghi, le città. Le città europee, italiane, tedesche, poi spagnole, dell'epoca del tardo Medioevo fino al Rinascimento, i borghi. Notate che la parola borgo svolge un ruolo importante nella storia della modernità, perché dalla parola borgo deriva la parola borghesia, che è la classe di quel territorio particolare che è la città nella modernità occidentale, una città strettamente collegata con la concentrazione produttiva, la fabbrica. Il borgo cresce perché i contadini, servi della gleba che stanno sparpagliati sul territorio feudale, corrono verso quel luogo in cui c'è la libertà dal giogo feudale, l'aria della città rende liberi, dice, non so chi, qualcuno, e l'aria della città rende liberi perché la città, a differenza del feudo, è un luogo nel quale non ti posso imporre di lavorare. Mentre il feudatario, se tu nasci nel suo territorio, devi lavorare per lui. Se tu sei in città, non sei obbligato a lavorare. Naturalmente muori di fame, quindi se non lavori chiederai in ginocchio di poter lavorare. Ma questa schiavitù nuova, che sarà la schiavitù capitalistica e industriale, nasce in condizioni di libertà formale. Dunque il borgo è un luogo di libertà formale, ma è anche il luogo nel quale si concentrano le competenze, le capacità produttive, quelli che oggi chiameremo gli skills, le specificità della conoscenza che rendono possibile una produzione, la messa in moto del processo capitalistico. Una di queste, anzi direi la competenza per eccellenza, è la competenza della innovazione. Perché se ci pensate, l'innovazione è lo spirito di un sistema che si fonda sulla crescita, sull'espansione. Innovazione vuole dire, per l'appunto, espansione del mondo conoscitivo, di ciò che conoscevamo fino a ieri. E qui io vi devo segnalare una vera e propria rivoluzione culturale che si sta verificando rispetto al Medioevo teologico, al Medioevo cristiano. Il Medioevo, quello che noi chiamiamo Medioevo con un'espressione abbastanza cretina per dire la verità, che vuol dire medio? Medio rispetto a cosa? Rispetto a, tra l'antichità e la modernità. E, insomma, potremmo definirla l'epoca teologica, l'epoca teocratica per quel che riguarda l'Europa. Theos vuole dire Dio, Kratos o crazia vuole dire potere, dunque come democrazia vuole dire il potere del popolo, così teocrazia significa il potere di Dio. Nella Europa dei secoli, dei mille anni successivi al crollo dell'impero romano, noi parliamo di teocrazia. Il mondo della produzione, il mondo della cultura, il mondo della vita quotidiana, si modella, si costruisce a modello della volontà di Dio. Ma la volontà di Dio è perfetta. E dunque noi non possiamo in nessuna maniera pensare di aumentare, accrescere il mondo, espanderlo. La perfezione non sta nel futuro. La perfezione non dipende da noi. La perfezione sta, anzi, nel passato, in quel passato da cui noi proveniamo dopo l'abbandono del paradiso terrestre, dopo la colpa originale. Là è la perfezione, nella mente di Dio. La perfezione è all'inizio e il mondo è il mondo di una caduta. Questa è la visione predominante di ogni cultura di tipo teocratico. Se noi pensiamo che il mondo sia prodotto della volontà divina, dobbiamo anche pensare che quanto più ci allontaniamo nel tempo da Dio, tanto più ci allontaniamo dalla perfezione, diminuiamo, non cresciamo. O, nella migliore delle ipotesi, restiamo uguali. Ma come possiamo compiere quel gesto di superbia che ci permetta di pensare che noi accresceremo il mondo che Dio ha concepito perfetto? Adesso, voi capite che cosa voglio dire. Insomma, voglio dire che il mondo teocratico è un mondo culturalmente statico, un mondo nel quale nulla, diciamo, può cambiare in maniera radicale, drammatica, non l'innovazione, ma la tradizione è il valore fondamentale. Qui bisognerebbe aprire un discorso particolare per la cultura cinese, per la civiltà cinese, che essendo così lontana dalla teocrazia europea, la Cina non ha una cultura religiosa di tipo teocratico. Semmai le due fonti culturali della storia cinese, che sono il confucianesimo e il taoismo, sono essenzialmente delle religioni dell'umano, della società. Il confucianesimo è fondato sul rispetto della regola, vorrei dire della convenzione linguistica, della convenzione politica, e il taoismo è fondato sul rispetto della regola naturale. Quindi c'è un'idea di permanenza nella perfezione di una regola originaria. Questo è un po' anche, diciamo, la spiegazione di un modello così stabile come il modello della civiltà cinese. Naturalmente la Cina ha conosciuto guerre, imperi, crolli e catastrofi, ma voi avete anche la possibilità di vedere una grande continuità nelle forme politiche ed economiche che hanno retto quattro millenni di storia cinese. E, l'Europa invece entra ad un certo punto, nell'epoca cosiddetta medievale, entra in una visione di tipo teocratico che si fonda su una idea di perfezione del passato e di caduta del presente, fino a quando succede qualcosa di nuovo. E questo qualcosa di nuovo, potremmo dire, adesso non posso dire che cosa viene prima e che cosa viene dopo, perché nella storia le cose accadono sempre in maniera un po' confusa, però potremmo dire che la nascita di una cultura del borgo, cioè la nascita di una cultura della innovazione, è in qualche modo l'elemento motore di una spinta, di una dinamica verso l'innovazione che trova la sua manifestazione più sconvolgente con la, lo spirito dell'esplorazione, che sia esplorazione geografica, che sia esplorazione scientifica o che sia esplorazione artistica, comunque l'idea di espandere il mondo conosciuto. Noi diciamo che la modernità inizia nell'anno 1492, anno in cui Cristoforo Colombo scopre un continente che poi si chiamerà dal nome di Amerigo Vespucci, che sarà il primo a dire questo continente nuovo, perché Colombo credeva che fosse l'India, pensate un po'. E comunque, insomma, l'anno in cui viene scoperto il nuovo mondo per noi è l'inizio della modernità. Potremmo naturalmente decidere che l'inizio della modernità sta in un altro momento, quando Vasco da Gama compie il suo giro qua. Ma insomma, la modernità inizia con una espansione dell'universo, del mondo geografico conosciuto. Vedete, l'espansione è l'elemento decisivo nella definizione del moderno. Notate che la stessa parola moderno allude all'espansione. Cosa vuol dire moderno? Da dove viene la parola moderno? Modus, certo, modo. Modo, moda. Modus in latino significa ciò che cambia, in opposizione a substantia. Per i latini noi abbiamo una substantia che è ciò che sta sotto e che non cambia mai, e abbiamo un modus, che è ciò che sta sopra e cambia continuamente. Allora, la substanza è ciò che di umano è immutabile, il modo è ciò che di umano invece è costantemente mutabile. Dunque, definire moderna l'epoca moderna significa connotarla in una maniera inequivocabile. L'epoca del costante mutamento, della costante espansione, della costante innovazione. Prego. Ma questo modus significa una cosa di continuo cambiamento. Il modus operandi è l'esatto opposto. Sì. Modus operandi significa il modo dell'operare. Sì, solitamente viene inteso come un qualcosa, per esempio nel modus operandi dei serial killer. Il modo in cui i film vengono reiterati sembra nello stesso. Sì, perché ciò che caratterizza, che specifica, che differenzia il modus operandi è la modalità che caratterizza un certo personaggio. In quel caso vuol dire le stesse caratteristiche reiterate più volte. Sì, diciamo, è la sua specificità che si manifesta molte volte. Il tuo modo è costante in te, ma è ciò che ti caratterizza rispetto alla substanza umana. Il tuo modo operandi, la tua particolarità operativa, è ciò che ti differenzia dalla substanza che accomuna tutti gli esseri umani. Modus comunque significa lo specifico, il differente. Il differente, tu mi dirai, ma il mio differente è ciò che mi caratterizza nel tempo, dunque è il mio essere uguale, però è il tuo essere differente rispetto agli altri. È sempre la contraddizione dell'identità di cui parlavamo prima. L'identità cos'è? È ciò che ti identifica con te stesso, ma al tempo stesso ti differenzia dagli altri. Dunque, modernità è l'epoca della moda. Moda, questo significa ciò che costantemente cambia. Bene, dunque, lo spirito dell'esplorazione, della innovazione geografica, ma non solo geografica, dell'innovazione in generale. Naturalmente questo è decisivo dal punto di vista economico, perché apre quella storia che chiamiamo storia della colonizzazione, ma io non mi soffermo su questo. Sapete bene che la colonizzazione del mondo da parte di alcune potenze europee è la condizione economica dello sviluppo capitalistico. Non ci sarebbe stato l'arricchimento del mondo europeo senza la rapina sistematica dei continenti extraeuropei, a cominciare con il continente americano, il Sud America prima di tutto, e poi gli altri territori del pianeta. Ma non mi interessa qui parlare della colonizzazione. Mi interessa parlare delle caratteristiche che la modernità assume sul piano culturale, perché mi interessa poi arrivare a riproporre la questione del denaro, quindi è lì che voglio arrivare. Dunque, nel momento in cui si mette in moto questa dinamica, e qui la parola dinamica la prendo molto seriamente, dinamica in opposizione a statica. Il mondo medievale, teocratico, ha un carattere essenzialmente statico, stasis, in greco significa il permanere, sempre uguale, dynamis, in greco significa energia, trasformazione. E dunque dinamica è un processo in cui il movimento e il cambiamento è essenziale. Ecco, la dinamica della modernità è dapprima caratterizzata da questo spirito esplorativo, sperimentale, sul piano conoscitivo, come sul piano produttivo, geografico, eccetera, e poi ad un certo punto si verifica un processo complesso che porta alla valorizzazione dell'individualità e particolarmente della responsabilità individuale. Sto alludendo ad una questione, diciamo, complessa dal punto di vista dei processi che implica, ma cerco di sintetizzarla. Nel 1476 un signore che si chiama Gutenberg, un tedesco, costruisce una macchina che i cinesi già conoscevano, bisogna dire, quelli conoscevano tutto, che è la macchina da stampa. Però bisogna dire che la cultura cinese ha utilizzato l'innovazione tecnologica come un fattore di stabilità tradizionale, mentre la cultura borghese europea utilizza la tecnologia come fattore dinamico di rivoluzione, di costante trasformazione. E Gutenberg inventa la macchina da stampa. Cos'è la macchina da stampa? Lo sappiamo, è un oggetto che permette di fare molte copie di un testo. La macchina da stampa produce nel secolo successivo, tra il 1450-60, credo che sia il 47, non il 67, 1447, l'anno in cui si dice che Gutenberg ha scoperto che c'era il modo di fare molte copie da una copia sola. E la macchina da stampa introduce un fenomeno profondamente trasformatore sul piano civile, produttivo, religioso e politico. Perché? Perché la macchina da stampa permette di moltiplicare e dunque mettere a disposizione di molti ciò che prima era assolutamente raro e che costituiva la base del potere teocratico. Pensiamo alla Bibbia, cioè al libro fondamentale della cristianità. Fino al 500, se volevi conoscere la parola di Dio, dovevi andare dal prete, da colui che teneva nelle sue mani il potere della parola. E dunque questo conferiva alla Chiesa un potere insostituibile. Ma non solo questo, naturalmente, perché la macchina da stampa non solo permetterà di moltiplicare la Bibbia, di dare a ogni cristiano che lo voglia e che sappia leggere, piccolo problemino, la possibilità di accedere alla parola di Dio, ma anche la possibilità di sapere come si costruisce una certa macchina, come si seminano certe piante, come si producono certi oggetti. Quindi la stampa prima di tutto moltiplica le possibilità di accesso alla parola divina. Due, moltiplica le possibilità di conoscenza tecnica e produttiva nel territorio che si sta costituendo della borghesia moderna. Il primo passaggio è quello culturalmente decisivo all'inizio, perché grazie alla diffusione della stampa e quindi della Bibbia e quindi dell'accesso alla parola divina, nel XVI secolo, dopo il 1517, in Europa, nel nord Europa, si verifica un fenomeno che rivoluziona completamente la storia religiosa e quindi la storia culturale d'Europa. Nasce quel fenomeno che noi chiamiamo protestantesimo. Cos'è il protestantesimo? Il mondo europeo, il mondo teocratico europeo, è un mondo unificato soprattutto dalla cultura cristiana, dalla religione cristiana. Cos'è il cristianesimo? Un poco lo sappiamo, ma insomma diciamo è quella religione fondata sulla parola di un persona storicamente nota come Gesù Cristo, il quale all'incirca 2012 anni fa comparve in un paese della Palestina e predicò alcune concezioni fortemente innovative. Essenzialmente predicò il sentimento della persona, dell'individuo, della persona come fondamento del bene e del male, della comunità sociale e così via. E predicò anche la relazione diretta fra la persona e Dio, e lo spirito universale e così via. Predicò anche delle altre cose, come ad esempio il culto dell'amore come elemento innovativo sul piano sociale, e quindi anche una idea di libertà rispetto alle forme che la società schiavistica aveva affermato in precedenza. Insomma, il cristianesimo finisce per costituire l'elemento fondativo della società europea nei 1500 anni successivi. Ma il cristianesimo non è mai stato una realtà monolitica, compatta, unitaria, fino dall'immediato periodo successivo a Cristo. I cristiani si sono divisi in gruppi diversi, credenze, chiese diverse. Nel terzo secolo dopo Cristo il cristianesimo occidentale si separa da quello orientale, nasce la chiesa ortodossa, nasce la chiesa copta, nasce la chiesa siriaca. Però diciamo che l'Europa, il mondo europeo, con l'eccezione della Grecia, se vogliamo, è unito ed è politicamente, militarmente unito perché è il mondo cristiano. Bisogna dire che in questo il cristianesimo si contrappone a partire da un certo momento, a partire dal VII-VIII secolo, al mondo islamico che nasce nell'Africa del Nord, nei territori dell'Arabia e così via. E questo, la formazione del mondo islamico consolida l'unità del mondo cristiano. Carlo Magno, la creazione del Sacro Romano Impero a partire dal IX secolo d.C. Insomma, il cristianesimo è l'elemento forte dell'identità europea, come direbbe oggi Nicolas Sarkozy o qualche altro cretino leghista italiano. Il cristianesimo è l'elemento costitutivo dell'identità europea nell'800 d.C., 1200 anni fa. E dunque lo sto sottolineando per dire che qui c'è una cosa di cui noi dobbiamo prendere atto. Il cristianesimo, l'identità religiosa, costituisce l'elemento di identità politica ed anche culturale ed economica del mondo europeo. Poi accade qualcosa di drammatico, traumatico nella storia del cristianesimo europeo. Un monaco tedesco, la Germania svolge un ruolo importante nel processo di modernizzazione, come vedete Gutenberg, Lutero e poi un monaco tedesco di nome Martin Luther decide che non vuole più pagare le tasse alla Chiesa di Roma. Ha tutte le ragioni per farlo, perché la Chiesa di Roma è in quel periodo corrotta, ma lasciamo perdere, sono dettagli che non ci interessano. Si era giunti al punto di chiedere le tasse ai cristiani che volevano essere perdonati dei loro peccati, la tassa sulle indulgenze. Se tu paghi ti perdono per aver ucciso tuo cugino. E così via. Quindi diciamo la corruzione della Chiesa di Roma era diventata per certi aspetti intollerabile, ma il punto che ci interessa non è questo. Il punto che mi interessa di più è un altro. Martin Luther un giorno si sveglia con la luna di traverso, va nella sua chiesa e attacca un manifesto sulla porta della chiesa di Württemberg, un manifesto con 99 tesi che dicono molte cose. Non paghiamo più le tasse a quei porci della Chiesa di Roma. E poi tante altre cose che seguono a questo primo. Fra le altre, diciamo, affermazioni teologiche, quello che emerge come più significativo è l'affermazione del fatto che il cristiano parla direttamente con Dio. Non ha bisogno di una mediazione, non ha bisogno della Chiesa per poter parlare con Dio. E qui emerge il carattere, vorrei dire, moderno, borghese, dello spirito protestante. Perché prima di Gutenberg, come faceva il cristiano a parlare direttamente con Dio? Doveva andare a parlare col prete se voleva leggere la Bibbia. Quando Gutenberg permette ad ogni cristiano, che sia anche un borghese, quindi sappia leggere, e che abbia anche i soldi per comprare quel libro, gli permette di parlare direttamente con Dio a casa sua, a quel punto il principio ecclesiastico, ecclesia vuol dire assemblea, vuol dire comunità, il principio della dipendenza dalla comunità viene meno. Ogni cristiano è un individuo che direttamente può avere accesso alla parola divina. Questo mutamento può apparire secondario a noi, postmoderni, in realtà costituisce una frattura, una rottura profondissima nella identità cristiana dell'epoca che sta cominciando. L'inizio della responsabilizzazione individuale, cioè del fatto che il cristiano è individuo che si rapporta direttamente con la parola e con la volontà di Dio. Questo inizio mette poi in moto dei processi che diventeranno sempre più significativi quando dopo Lutero avremo altri filosofi o religiosi protestanti, come ad esempio Calvino o come Zwingli o come tanti altri. Calvino, ad esempio, afferma che l'individuo deve considerarsi nelle grazie di Dio sulla base della sua fortuna mondana. Cioè, se tu sei ricco, fortunato, questo non è una brutta cosa, non è un male, non stai togliendo niente alla comunità, vuole dire al contrario che tu sei ben voluto da Dio. Il tuo rapporto con Dio è un rapporto, diciamo, giusto, e dunque Dio ti vuole bene e ti arricchisce. Diciamo, la rottura protestante valorizza l'individualità, ma al tempo stesso valorizza anche l'impresa. Tu individualmente devi entrare nella creazione del mondo, che non è compiuta, come crede il vecchio cristianesimo pre-protestante. La visione teocratica medievale pensa che la creazione l'ha compiuta Dio, basta. Noi dobbiamo vivere nella ripetizione, nel rispetto del mondo creato da Dio. L'individualismo protestante pensa che la creazione è un atto mai compiuto, che noi dobbiamo compiere come borghesi, come imprenditori. Intrapresa è una parola che il Rinascimento, l'umanesimo, propone proprio per intendere questa incompiutezza della creazione. L'intrapresa è intraprendere, vuole dire incominciare qualcosa che però si iscrive in un processo. Ecco, l'idea di intrapresa, noi diciamo impresa, è la creazione sempre aperta, l'espansione, l'accumulazione, la crescita, il capitalismo, la società, la civiltà borghese. Ecco, se voi volete una introduzione a questa tematica, potete leggere il libro di un sociologo tedesco che si chiama Max Weber, il quale scrive all'inizio del XX secolo un libro molto noto, molto fortunato, che si chiama L'etica protestante e lo spirito del capitalismo, per l'appunto. L'etica protestante, quindi questa nuova morale dell'individualità e dell'impresa, e lo spirito, l'anima del capitalismo. Non è necessario che io vi dica che qua il protestantesimo non è un fenomeno isolato e non è un fenomeno solo religioso. Anzi, noi dobbiamo e possiamo leggerlo in uno stretto rapporto con un fenomeno italiano che si chiama umanesimo. L'umanesimo, cioè quella cultura filosofica, artistica, non religiosa, anzi essenzialmente laica, che nasce nella Firenze del 1400 e che poi diventa un elemento comune alla cultura europea del 1500. Cos'è l'umanesimo? È proprio l'affermazione del fatto che Dio ha creato il mondo, ma l'uomo lo deve compiere, lo deve portare a compimento. C'è un filosofo modenese che si chiama Pico della Mirandola, anzi mirandolese, e Pico è un italiano, filosofo importante, diciamo, nell'umanesimo, che racconta una storia. E la sua storia è questa: Dio crea il mondo e crea i leoni, crea gli alberi, crea le case, no, quelle ci ha pensato l'uomo, crea i prati, i mari, le stelle, tutte quelle altre cose lì. E tira fuori da un sacco la essenza, l'idea, il concetto di leone, di stella, di mare, cioè ha come una specie di serbatoio degli archetipi, dice Miran Pico. Archetipi, archetipo vuol dire il tipo ideale, il concetto, l'idea, quello che viene all'inizio, l'idea di mare, quella cosa là, grande acqua, capito? L'idea. Poi a un certo punto il sacco rimane vuoto. Dio si rende conto che ha finito gli archetipi, non ha più archetipi nella sua saccoccia e deve ancora fare l'uomo. Come fa? E allora fa l'uomo, ma gli dice: caro uomo, mi dispiace, per te non c'è un archetipo, non c'è una definizione. Mentre l'albero è definito, il leone è definito, la stella è definita, definita, definire significa al tempo stesso nominare e conchiudere, definire, limitare, quello sei tu, basta. Sei un leone, che vuoi fare? Quelle cose lì devi fare. Mangiare i cristiani, ficcarti delle spine sotto il piedino e fare wow wow. È nella tua natura. Sei uno scorpione, quelle cose devi fare. Sei una stella, mandi le luccichine. È nella tua natura. Poi c'è l'uomo. E l'uomo non ha una natura. Capite che cosa sta dicendo Pico della Mirandola? È un'affermazione, da un certo punto di vista, sacrilega, molto, veramente sul piano filosofico rivoluzionaria, perché sta dicendo che proprio dell'umano è la libertà, proprio dell'umano è il non essere, il non essere, e dunque divenire, e dunque creare. Il fatto di non disporre di una definizione significa l'essere gettati in una condizione di progettualità. Progettualità significa per l'appunto la continua creazione del sé, come divenire, come mutamento, come indefinitezza, come assenza di una natura. Non è nella mia natura, perché io non ho natura. Io invento, creo la natura. Ecco, questo è in fondo, se voi mi chiedete ma cos'è l'umanesimo, ecco, credo di averlo detto. L'umanesimo è essenzialmente l'innovazione che all'interno della cultura cristiana, ma ormai anche un po' all'esterno, diciamo pure, nasce nel momento in cui l'uomo pensa di essere non l'oggetto della volontà divina, non la manifestazione di ciò che Dio voleva e dunque ha pensato e realizzato, ma un progetto che non dispone di nessun canovaccio sul quale è da eseguire. Ecco, l'umanesimo e il protestantesimo, che per molti aspetti sono, convergenti nella innovazione culturale che si verifica all'inizio della modernità, protestantesimo ed umanesimo istituiscono un nuovo universo culturale, che è l'universo della borghesia moderna, della borghesia imprenditoriale, e qui uso l'espressione imprenditoriale in un senso forte, filosofico, intrapresa, ecco, il portare a compimento la creazione, e al tempo stesso di una borghesia che può mettere in moto il processo della accumulazione capitalistica. Accumulazione, espansione, crescita, cioè il mondo non è finito. Il mondo umano non è finito perché non è definito, perché non ha una natura. Siamo noi che giorno per giorno la inventiamo. Questo dice Martin Lutero di Württemberg nel 1517, l'anno in cui inizia la riforma protestante, quando quella mattina Lutero attacca le sue 99 tesi sulla porta della chiesa di Württemberg. A Roma la notizia arriva come insomma una minaccia, non la prende tanto bene Papa, c'era Papa Borgia forse, o forse già Papa Sisto, non mi ricordo bene, comunque c'era un Papa, il quale non la prende assolutamente bene la notizia che c'è questo monaco pazzo che ha dichiarato l'indipendenza dei tedeschi dalla Chiesa di Roma. E dunque inizia una vera e propria guerra che durerà per quasi due secoli. E i principi tedeschi, che sono essenzialmente principi cittadini, quindi fortemente legati con la borghesia, appoggiano Martin Lutero, anche perché in questo modo non pagano più le tasse a Roma. E quindi c'è ci sono tante ragioni che rafforzano il protestantesimo in Germania. E poi dalla Germania il protestantesimo si diffonderà in Inghilterra, si diffonderà nei paesi scandinavi, si diffonderà in parte dell'Europa centrale, fino a quando nel 1620, un secolo dopo, si arriverà ad una vera e propria battaglia finale tra gli eserciti dei principi tedeschi protestanti e gli eserciti spagnoli e italiani del papato. Questa battaglia si svolgerà vicino alla città di Praga, in un posto che si chiama la Montagna Bianca, che è subito a nord di Praga. La battaglia della Montagna Bianca, in cui nessuno vince, e che però in qualche modo stabilisce un confine tra l'Europa protestante del nord e l'Europa cattolica del sud. Questo confine permane ancora oggi. Se voi guardate la cartina geografica d'Europa, vedete che l'Austria, l'Italia, la Croazia, la Spagna, il Portogallo, la Francia del Sud sono cattoliche, la Germania, l'Olanda, parte della Scandinavia, l'Inghilterra, la Francia del Nord sono protestanti prevalentemente, poi naturalmente ci sono dei cattolici a nord e dei protestanti a sud, pochi. Ma insomma, più o meno questo è il taglio che caratterizza l'Europa dal 1620 in poi. In quel secolo, il secolo fra 1517 e il 1620, naturalmente sono successe tantissime cose. Il Papa ha chiamato tutti i suoi amici, il suo amico più caro è generalmente il re di Spagna, che poi diventerà l'imperatore, ma insomma gli spagnoli sono la forza armata di Roma. Il Papa convoca le sue truppe religiose e militari e organizza un concilio, che si chiama Concilio di Trento. Concilio è la parola con cui i papi chiamano le loro assemblee quando bisogna decidere qualcosa di importante, e lì bisogna decidere qualcosa di importantissimo. Forse quello, il Concilio di Trento, è il più importante concilio della storia europea, in un certo senso. A Trento, perché Trento? È ovvio, perché Trento è lì vicino, vicino al confine con i protestanti. E il Papa invita Martino Lutero a partecipare al concilio. Gli dice: guarda, facciamo il concilio a Trento perché tu possa venire, visto che non ci sono i treni ad alta velocità. E Martino Lutero ci pensa un attimo e poi declina l'invito. A buona ragione, perché noi gli storici sanno che se Lutero fosse andato a Trento sarebbe stato arrestato, era già pronto per lui l'eliminazione, quindi Lutero decise di non partecipare a questo concilio. E dunque il concilio di Trento, che era stato convocato per discutere e ricostituire l'unità del cristianesimo europeo, invece finisce. Il Concilio di Trento dura 45 anni, è una storia lunghissima, durante la quale accadono avvenimenti di ogni tipo. La conclusione del Concilio di Trento è che il cristianesimo europeo è definitivamente rotto, spaccato. L'Europa del Nord sarà protestante e borghese, l'Europa del Sud cosa sarà? Parte quel processo che viene definito controriforma. Con l'espressione controriforma noi intendiamo quel processo di riorganizzazione della Chiesa che in parte assume alcune delle critiche protestanti. Ad esempio la Chiesa, che era stata corrottissima nel secolo precedente, si moralizza, abbiamo dei papi molto più sessualmente morigerati, più ben educati, insomma da Berlusconi si passa a Monti, diciamo così, lo stile è un poco questo. Ma la Controriforma ha un significato molto più ricco e molto più profondo. Mi è difficile dirlo in poche parole, ma ci provo. La Controriforma è uno. Il lancio, se così posso dire, di un programma di evangelizzazione del mondo. Due, la Controriforma è l'assunzione dello spirito barocco come spirito anti-borghese. Si tratta di due questioni separate, anche se connesse fra loro, entrambe molto importanti sul piano della trasformazione culturale del mondo cristiano. Uno, evangelizzazione. Cosa vuol dire evangelizzazione? Evangelizzare vuol dire portare il Vangelo a chi non lo conosce ancora. Allora, sostanzialmente i cattolici, cattolicos, è una parola che non esisteva fino al Concilio di Trento. Cioè, il Concilio di Trento che stabilisce che la Chiesa romana è cattolicos, cattolica. Cosa vuol dire cattolicos? Cat o los vuol dire su tutto, e dunque vuol dire universale. Naturalmente, quando la Chiesa smette di essere universale, dice siamo universali. È normale, comprensibile. Proprio perché abbiamo subito un trauma, una separazione, affermiamo che solo noi siamo universale. Dunque la Chiesa cattolica, che vuole dire non cattolica in verità, la Chiesa cattolica riconosce che i tedeschi se ne vanno per conto loro, vadano a quel paese, vadano al diavolo letteralmente i tedeschi, tanto a noi che ce ne frega, abbiamo appena scoperto l'America, altro che tedeschi, laggiù abbiamo anime da convertire quante ne vogliamo. Inizia, siccome l'idea è quella di, diciamo, di una espansione, di una evangelizzazione, espansione della parola di Cristo, e abbiamo le anime dei nuovi umani che abbiamo scoperto laggiù, oltre l'oceano, e quello è il mondo che noi dobbiamo cristianizzare. Qui si pongono una serie di questioni, ma sono veramente esseri umani quelli là? Hanno l'anima come le donne, ma le donne hanno l'anima? E così gli indigeni, quelli là piccoletti, nudi, sporcaccioni, hanno l'anima? È una questione che si pone, c'è un prete che si chiama Bartolomeo de las Casas, il quale scrive una brevissima relazione sulle nuove terre, non mi ricordo il titolo, brevissima relazione, che è un librettino che las Casas scrive per il re di Spagna. Sono i re di Spagna quelli che si incaricano di colonizzare i territori messicani, poi peruviani, colombiani, sudamericani e così via, è il nuovo mondo. E al re di Spagna lui dice: ma guarda, caro re, che noi siamo andati lì e abbiamo trovato questi esseri che sono gentili, delicati, buoni, sono più cristiani di noi, perché hanno un rapporto con la natura, sono pacifici. Noi andiamo lì e li stiamo ammazzando tutti, li costringiamo a fare dei lavori che li uccidono. Dalla scasa sei il primo che afferma la natura umana degli indigeni, dei cosiddetti indiani, perché Colombo credeva che lì fossimo in India, e quindi dalla scasa si inizia un ragionamento sulla evangelizzazione, che poi diventerà un ragionamento maggioritario. Notate, i demografi, sapete chi sono i demografi? Sono quelli che si occupano dei flussi della popolazione, crescita e diminuzione. I demografi dicono che nel continente americano, nord e sud, si può valutare che nell'anno 1492 ci fossero 10 milioni di esseri umani all'incirca, 10 milioni di esseri umani. Alla fine del XVII secolo, nel 1600, i demografi calcolano che nel continente americano, nord e sud, ci fossero 3 milioni di esseri umani. Dunque, quello che è accaduto nell'arco di quei due secoli è probabilmente il più spaventoso genocidio, massacro che la storia umana abbia mai conosciuto. La popolazione amerindiana o precolombiana era concentrata soprattutto nel Centro America e però c'erano popolazioni anche nei territori nordamericani, il cosiddetto popolo degli uomini, pelle rossa, insomma, le popolazioni amerindiane del nord. Dal Messico in giù la colonizzazione a carattere spagnolo e cattolico, romano, diciamo così, ed è una colonizzazione rivolta alla evangelizzazione, per cui gli indios del Centro e Sud America vengono uccisi, sfruttati, costretti a lavorare, ma anche salvati, perché sono anime che vanno conquistate alla parola di Dio. Poi, a partire dal 1600, diciamo 1610, inizia la colonizzazione del Nord America, compiuta da olandesi, inglesi e poi anche francesi, essenzialmente poi anche altri. Bene, la colonizzazione del Nord America ha un'unica finalità, lo sterminio assoluto, la cancellazione del popolo degli uomini. Il risultato è che nel Sud America abbiamo culture amerindiane che stanno risorgendo. Pensate a Evo Morales in Bolivia, al Venezuela di Hugo Chavez, all'Ecuador di Rafael Correa, cioè culture indigeniste che si stanno ricostituendo perché è rimasta una continuità culturale linguistica. La lingua quechua non è scomparsa, sta risorgendo. Nel Nord America non è rimasto nulla. La popolazione amerindiana del nord, diciamo Pelle Rossa sono stati sterminati fino all'ultimo, si rimangono alcuni residui, riserve prive di qualsiasi continuità culturale e linguistica con il loro passato, se non si fa qualche piccola eccezione per la lingua Hopi, che viene conservata come un oggetto da museo in qualche riserva canadese e così via. Ecco, il protestantesimo ha avuto nella sua opera di colonizzazione una finalità di sterminio puro e semplice, portato a termine con determinazione ed efficienza nazista. La colonizzazione cattolica, che io non sto qui a difendere naturalmente, però mi limito a fornirvi un dato storico, la colonizzazione cattolica, avendo una finalità evangelizzatrice, ha mirato a salvaguardare compatibilmente. Voi forse sapete che lo sterminio delle popolazioni amerindiane è avvenuto soprattutto per effetto della importazione di malattie, di virus. Gli indios uccisi per cose belliche, per guerre, sono tanti, tanti, in realtà non tantissimi. Molti di più sono stati uccisi dalle condizioni di lavoro, ad esempio in luoghi come le miniere di argento di Potosí, in Perù, dove si calcola che siano morte 300.000 persone nell'arco del XVII secolo. Ma il genocidio non è avvenuto né a fil di spada né per le condizioni di lavoro, è avvenuto soprattutto perché gli europei erano portatori di virus che non avevano mai attecchito nei territori americani, e quindi le epidemie di tifo, di vaiolo o di semplice influenza sterminarono gran parte, la larghissima maggioranza delle popolazioni di quei territori. Beh, insomma, comunque non è questo che mi interessa. Quello che mi interessa è sottolineare questo processo di evangelizzazione che si svolge nei territori cattolici del centro e del Sud America. Il carattere culturale della Chiesa Cattolica Romana si differenzia dal carattere culturale delle chiese protestanti. Non possiamo neanche parlare di chiese protestanti. Il protestantesimo è un fenomeno di affermazione dell'individuo, che talvolta si condensa in sette chiese, ma che essenzialmente si caratterizza come fenomeno di valorizzazione dell'individualità, l'individualità che si ritrova in comunità, ma che è prima di tutto individualità, prima di tutto persona. E la cultura cattolica invece ribadisce il primato della comunità, il primato della appartenenza alla Chiesa. Ma vi è un altro tratto più sottile, più complesso, che dobbiamo cogliere se vogliamo capire poi l'evoluzione differente del Nord Europa rispetto a quello del Sud Europa, ed è la contrapposizione fra la cultura gotica, la severità della cultura nord europea, che è essenzialmente cultura del testo, cultura della parola. Voi sapete che il protestantesimo abolisce l'iconismo del cristianesimo medievale, cioè non sono ammesse le immagini se non in maniera molto rara, e in ogni caso il rapporto con Dio non passa attraverso tutte le figure della santeria cattolica, non ci sono i santi nel mondo protestante. Il cattolicesimo non è a rigore una religione monoteista, lo è in teoria. In realtà il cattolicesimo nella sua pratica reale è una religione essenzialmente politeista, e lo è tanto più nei territori di evangelizzazione, perché quando i cattolici, i romani, i cristiani romani, spagnoli giungono in Messico, poniamo, cosa fanno? Si trovano in un mondo che ha una sua religiosità, che è una religiosità politeista, e i cristiani, dopo averci pensato un po' su, decidono che il politeismo locale, cioè il culto di tante divinità, deve essere integrato sincreticamente. Parliamo di religione sincretica o cultura sincretica quando parliamo di religione mescolata. Sin vuol dire insieme e cresis vuol dire mescolanza. Dunque nasce una religione di tipo essenzialmente sincretico, cioè una religione in cui la Madonna si identifica con delle figure femminili locali, San Lazzaro si identifica con un certo, anzi San Lazzaro non esisteva neppure, nasce un San Lazzaro per alcune culture messicane, Santa Teresa, si moltiplicano i santi sincretici. Se voi andate in Brasile ancora oggi o in Messico, scoprirete che la santeria ha una vitalità senza precedenti, una vitalità straordinaria. È come andare nel mondo induista per certi aspetti, troverete un culto di divinità locali che poi vengono trasformate in santi, riconosciute come santi, che alimenta e vivacizza l'adesione, la conversione cristiana, ma cristiana si fa per dire, certo c'è Cristo che è in qualche modo il mito unificante di una quantità sterminata di mitologie locali che si riqualificano come mitologie sincretiche. In tutto questo ciò che gioca un ruolo mediatico fondamentale non è la parola, è l'immagine che dal Concilio di Trento viene enfatizzata come la forza principale della conversione delle anime al cattolicesimo. Il protestantesimo è culto del libro, è culto della parola di Dio che il borghese cristiano colto, lettore, può interpretare nel segreto individuale della sua coscienza, liberamente, perché ogni cristiano protestante può interpretare la Bibbia secondo la sua coscienza, almeno diciamo il protestantesimo originario, lasciamo perdere il protestantesimo americano contemporaneo che è un'altra cosa ancora. Il cristianesimo controriformato romano spagnolo colonizzatore ed evangelizzatore punta tutto invece sull'immagine. Perché? Perché evangelizzare vuol dire parlare con persone che non hanno una cultura scritta, non potrebbero leggere né capire la parola e che vanno impressionate, convertite attraverso la potenza dell'immagine. La potenza dell'immagine è, ovvero della infinita d'utilità, maneggiabilità dell'immagine, è in fondo l'anima di quella che noi possiamo chiamare la cultura barocca. Se noi ci chiediamo, ma cos'è il barocco? Se io chiedo a voi, che avete studiato un poco di storia dell'arte, ma cos'è il barocco? Io credo che abbiate difficoltà a rispondermi, io stesso ho difficoltà a rispondere a questa domanda, perché nessuno sa esattamente cos'è la cultura barocca. Sì, sappiamo la fenomenologia del barocco spagnolo, la fenomenologia del barocco italiano. Potremmo dire, così ci dicono i libri di storia dell'arte, che il barocco è costituito da una superfettazione del decorativo, da una crescita, da un prevalere del decorativo rispetto all'essenziale, da un prevalere della decorazione rispetto alla struttura. Ma che definizione? Una definizione del cavolo, non definisce quasi niente, si limita. Però è riconoscibile. Riconoscibilissimo. Cioè si può dare una definizione per difetto, diciamo. Sì, no, diciamo che il barocco manca di una definizione essenziale, perché il barocco è la cultura dell'inessenziale. dell'inessenziale. Ma quando dico l'inessenziale, mentre il protestantesimo è cultura dell'essenziale, il gotico cos'è? Una enfasi sull'essenziale, soltanto dal gotico al razionalismo, la cultura borghese visivamente è cultura dell'essenzialità, fino alla funzionalità del Bauhaus, per così dire, no? Fino allo spirito della purezza del razionalismo. Mentre nella tradizione barocca ciò che conta di più è la moltiplicazione dell'inessenziale, perché l'inessenziale convince, perché l'inessenziale è ciò che cattura l'animo, diciamo, ingenuo, illetterato dell'anima da evangelizzare. È una cultura dell'effetto, diciamo. Dell'effetto, bravo, esattamente, è una cultura dell'effetto. Del concetto. È l'effetto contrapposto al concetto. Che poi la critica che in realtà nel processo iconoclasta è stata fatta l'immagine religiosa, no? Adesso poi naturalmente si apre tutta la questione dell'iconoclastia e dell'iconofilia della cultura moderna. Il barocco è essenzialmente l'origine della cultura iconofila moderna. Io vi segnalo qui semplicemente due libri, Antonio Maravaglio è autore di un libro che si chiama La cultura del barocco, credo che sia tradotto in italiano con la cultura barocca, non lo so. Si chiama La cultura del barocco, e questo è un libro diciamo proprio sui fondamenti concettuali, sui fondamenti come posso dire storici, filosofici, diciamo così, del barocco. E proprio lui cita ad esempio un tal Alvaro de Mendoza che dice: pensa, Dio ha saputo creare infinite forme, così come in certe immagini, sapete quelle immagini che se fate così vedete San Francesco e se fate così vedete una bicicletta? Non so se vi è mai capitato, sì. Quelle cose da bambini, c'erano già nel 600, si facevano queste cose. Questi giochi ottici. Come l'hai chiamato? Giochi ottici. Sì, giochi ottici, trompe l'œil. Il diffondersi del trompe-l'œil nei secoli del barocco e così via. E Alvaro de Mendoza dice: ma Dio non ha detto delle parole, Dio ha fatto delle immagini, e ha fatto delle immagini completamente inverosimili, che se le guardi così sembrano una cosa, se le guardi così sembrano un'altra. Così dobbiamo fare noi, non come quei noiosi protestanti che dicono la verità. Cos'è la verità? Il barocco è una esaltazione della menzogna, è una esaltazione della pluralità del significato. Guardate che io sto puntando, lo dirò negli ultimi 5 minuti che ormai sono arrivati perché me ne dovrei andare via, ma io sto puntando a dire che il barocco, che tradizionalmente viene identificato come una cultura arretrata rispetto alla cultura moderna del protestantesimo, in realtà è la vera cultura postmoderna, è la vera cultura che corrisponde all'epoca contemporanea. E questo ci aiuta a dirlo un altro libro di un polacco che si chiama Serge Grudziński, che ha pubblicato un libro, forse come c'è anche in Italia, in francese si chiama La guerre des images, la guerra delle immagini. Sì, c'è. È tradotto in italiano? Sì. Ecco, questo è un libro sulla colonizzazione culturale del Messico, e lui racconta proprio la formazione di una cultura sincretica e così via. E la sua tesi è che noi non ci spieghiamo né Hollywood né la televisione se non teniamo conto del fatto che la California è barocca, che la California è territorio spagnolo fino al 1848. Che l'origine della cultura di Los Angeles, di San Francisco e di Hollywood non è nell'industria dell'immagine americana, nell'industria protestante, ma è nella cultura cattolica di derivazione messicana, cioè spagnola, cioè barocca, cioè controriformata, e che dunque la cultura dei media moderni moderni, la cultura propriamente postmodern, diciamo così, nasce come un ritorno dello spirito barocco oltre al di là della fine della severità gotica della borghesia protestante moderna. Ma però una lettura di questo tipo rompere le scatole. Però come si può leggere allora, che so, tutti i precetti di Ignazio da Loyola e negli esercizi spirituali sull'immagine eccetera, che sono in realtà estremamente severi e anche molto profondi, non forse ai livelli di Meister Eckhart, però certo. Comunque è qualcosa di effettivamente molto... Beh, difatti Ignazio da Loyola in qualche modo rappresenta il nucleo, diciamo militare, se vuoi, il nucleo protestante della cultura cattolica. Il cattolicesimo, per poter sviluppare la sua azione culturale evangelizzatrice, colonizzatrice e barocca, ha bisogno di un nucleo d'acciaio. Però questo nucleo è molto lontano da un... Assolutamente, però bada bene che la severità salica del gesuitismo è anche la disponibilità alla menzogna che caratterizza il gesuitismo, non è così, è come una specie di mediazione fra lo spirito severo del protestantesimo. I cattolici hanno bisogno di un esercito, e difatti la Compagnia di Gesù è un esercito, e dunque deve impersonare le regole militari e severe di un esercito, però è un esercito che è spregiudicato, è un esercito che sa che la menzogna può servire alla verità, e il protestante non ammette la menzogna come medium per raggiungere la verità. La verità è diretto rapporto con Dio. Il gesuita sa che la menzogna può servire alla verità. È un individuo più dialettico che spirituale. Più dialettico? Sì, cioè più... Se vuoi. Sì, sì. Oddio. Cioè, mi colpisce nel senso che in funzione di questa lettura i gesuiti in effetti potrebbero costituire un'anomalia, no? Beh sì, però guarda, insomma, allora qui tu mi stai ponendo anche il problema, ma Murillo è barocco o protestante? È barocco. Come si chiama? Zaza, insomma, il greco. L'oscurità del barocco spagnolo di Zurbarán va considerato come un elemento di severità. Certo è severo, certo è oscuro, certo è penitenziale, però è un penitenziale del barocco, perché il gioco della menzogna, della duplicità prevale rispetto alla severità del gotico. Ecco, questo naturalmente stiamo muovendoci su di un territorio in cui le sfumature prevalgono, però mi interessa questo, proprio Grusinski lo dice benissimo, e la guerra delle immagini, proprio lui apre una questione, ma è un libro degli anni 70, credo, no, forse dei primi anni 80, e apre una questione che oggi, e qui io non cito un terzo libro, ma ora che lo dico lo cito, c'è un altro, un messicano, un colombiano che insegna a Città del Messico, che si chiama Bolivar Echeverría, del quale parlerò, che ha scritto un libro intitolato Vuelta del Siglo, in cui sostanzialmente dice: Max Weber ci ha convinto del fatto che la modernità capitalistica è protestante. Ora dobbiamo dire la verità. Col cavolo, la modernità capitalistica sarà stata anche protestante, ma oggi la postmodernità finanziaria, la postmodernità del capitalismo, del semiocapitalismo finanziario e virtuale, è barocca. Il barocco è il vero elemento culturale fondativo del capitalismo postmoderno. Questo dice Bolivia. Sì, cioè la mia domanda era anche legata al fatto che effettivamente poi la Compagnia di Gesù ha aperto mercati, aveva, a un certo punto aveva un vero e proprio potere mercantile. E la sua funzione è quella di aprire il mercato, non di invaderlo, pervaderlo. Okay. Poi arrivano i barocchi, per così dire. O poi si esprime la ricchezza barocca della cultura sincretica. No, comunque è una questione interessante quello del rapporto della duplicità interna allo spirito gesuita. Sì, era una curiosità, diciamo. Sì, sì. Basta. Ci rivediamo domani. E domani continuiamo un poco a ragionare su delle questioni tipo antropologiche, se vogliamo, ma parliamo anche di Guelta del Siglo.